Torino. Ah, attento a Torino, macchina. Torino. Non c'è. Oi, Bocchino. Oi, Gian Maria. Ah, Torino, hai sentito? No, niente, non lo sento per niente oggi. Ma qui è sempre questo, non da poco non lo sento. Faceva sentire, anche quello è diventato un poltrone adesso. Sta facendo il ciucu giù senz'altro. Evidentemente sta freddo ed è sempre sotto le coperte. Sta mangiando porcetto con agnello. Anch'io non credo. Magari domani, ma anch'io non. Io sono buono per mangiare quando si ha fame. Vabbè, c'è una fame, è chiaro che. E come anche. Com'è Antonè? Dimmi, sono qua. Un deserto oggi è qua. Ho appena acceso. Ecco. Avanti. Buonasera Gian Maria, Antonello, anche io stavo ero fuori, sono rientrato, stavo a spazzolare, non c'era nessuno, adesso ho sentito a voi e a Antonello, sai come, non è più come prima, però bene o male già entra la gente, riprende Antonello. Vabbè, meglio pochi ma buono diceva quello. Avanti Gian Maria. Buonasera Gian. Cordialità. Tutti a male sono. Beh, vuol dire che hanno cose molto più importanti dietro le frequenze. Oggi è anche sabato, è così. Pago sono il buon affetto, Naramolo. Allora, tornando al discorso, siccome stavo chiedendo anche a Gian Maria che non lo sapeva che di questa bere, ma quanto tempo può essere morto? 2 settimane mi hai detto, ma come? 2 settimane io mi ricordo, ma sono Giovanni, il giorno sono andato per chiedere i finali del come si chiama, dell'Inuit per esattezza. E poi adesso è passato a me, sono stato al GBC. Quindi è stato 2 settimane fa, 2 settimane e mezzo fa, è là. Il laboratorio l'ha chiuso da tempo quindi? Così mi ha detto giù, ci aveva chiuso da parecchio tempo il laboratorio. Perché avevo un sacco di roba lì, di strumenti da laboratorio, un sacco di roba che fine ha fatto, perché no? Noi siamo amici di famiglia con la figlia, capito? E ci poteva recuperare qualche corpo. Riprendi Gian Maria. Ma sono tutti strumenti, magari lungo tempo. Vanno ancora, ma sono strumenti vecchi quelli che ci avevo, ormai non li stavo usando più, capito? Io ogni tanto lo trovavo, però era malmesso, ma chi era deceduto non sapevo, ecco. So che non stava tanto bene, però vedevo sempre lì, io ogni tanto andavo a fare degli analisi sotto quella sua. E per cui lo vedevo sempre, capito? Per cui che non abbia sentito, e affermava la parola che mi ha detto tu, dice che non c'è più. Perché mi ha detto Pompugno, me l'ha detto a me, se no sarei andato a funerale, perché mia moglie ha lavorato la Maddalena, la figlia, ce la tenevamo benissimo con Dino. Poi io, come ripeti, che ciò non c'ero più passato, perché ci andavo in laboratorio, non faceva nulla, però ci andavo, ma si vede che adesso manco guidava più, hai capito? No, un signore, capito? Una persona molto cordiale. Capito, sono dei bellissimi ricordi di Dino e poi come proprio appunto è capito un rapporto proprio di amicizia proprio stretto e riprendi la polenta. Capito, mi ha detto signor Giovanna più che altro. Poi se balla mi ha detto balla il tuo vicello, lì mi telefona la figlia Dice, se c'è lui, se dice che ce la dici tu, se dice pazienza, cosa vuol dire? Non è che stai facendo mica brutte figure, no? Non costa nulla. A me ha detto così, se la Giovanna, a voi, se sono balle, la fredda zicchia, non lo so. Ma io c'ho il numero di casa, sto chiamando io a casa sua e non risponde nessuno. E il numero di Maddalena è che non c'ho, hai capito? Nella guida non c'è. E quello del cellulare l'ho andato male, hai capito? Perché segnano i bigliettini, nel collo ce l'avevo memorizzato. Però sono beabita, hai capito? No, sicuramente così a come, perché se il numero suona il telefono in casa sua e non risponde nessuno, sicuramente la moglie sarà andata a vivere dalla figlia e così, niente, no, poi Gio Maria sta dicendo che lo vedeva che era messo un po' male, io adesso un paio d'anni che non lo vedevo più, dall'ultima volta mi aveva regalato un BR6 valvolare, con me era troppo in gamba, purtroppo io con lavoro ho una cosa e l'altra, hai capito, no? L'ho preso di pizza e anche sono stato un po' io, lo potevo anche telefonare da prima e questo, quando c'è la testa piena di cose ci sfugge anche. Riprendi Gio Maria. Lo conosco da parecchio, c'è una cinquantina d'anni lo conosco. Sì. Il primo 23 canali me l'ha ordinato lui, io avevo ordinato il Sommercal, ha ordinato, è quello che c'aveva le balle. Certo, invece 3 mesi che non arrivava mai questo apparecchio. A un certo punto va a telefonare, dice, vedi che è arrivato l'apparecchio. Dov'è? C'è di questo, ma questo è il Sommercal. E dice, no, insomma, che dice, non lo fanno più, non ce l'hanno, dice, mi hanno mandato questo pony, e lei fuori 23 canali mi aveva venduta, ti ricordi fuori 23 canali? Sì, Gio Maria, io avevo quello, e ho fatto, non lo sbaglio, l'ho fatto a questo mio amico, che è maresciallo dei carabinieri, perché si era invadito, quello con l'orologio sicuramente sarà, Gio Maria, quello con la stazione base, e a me me l'aveva venduto, lo sai chi? Giovanni Freccia, quello lì, te dice, non pone così. Quello con l'orologio, infatti, sì, quello con l'orologio. E ha avuto anche il pony 6 canali, ha avuto il pony 12 canali, ha avuto. E piacevano dopo, un po' governati ero, però come per uscire uscivano bene, che avevano una ricezione bestiale. Ecco, registrato. No, il coro ce l'ho, c'ho un 23 canali, pony di quello da barra mobile, c'ho i 6 canali, che si sente la voce del mio microfono. E niente, 12 canali l'avevo dato a lui poi, che era di G91, CP71P e poi i 7 mi ha fatto, perché poi avevo il facile, sapevo. Ok, perfetto, avanti il break e buonasera, in compagnia di Gio Maria, e Antonio Pomponio e Gianni Capri 2 Modulati, avanti il break. Ciao Gianni, ben sentito, a te gli amici che sono in ruota da questa parte. Il Grote che ti super cordializza, fra l'altro sono capitato nelle tue coordinate Gianni e ho visto il tuo mezzo di lavoro, imponente direi. Quando sei venuto Antonio? Avantieri perché sono dovuto passare a Ossi e allora ho visto il cartellumuro, ho detto dai ci faccio un giro perché era da un po' di tempo che non passavo. E l'ho visto parcheggiato in una... è possibile che ci sia un meccanico vicino, un'officina meccanica? A Muro? A Parogia, almeno ho visto qualcuno che era in tutta da meccanico, era a fianco, era a Dorato se non sbaglio il mezzo. Il mio Puma è con carta travel, è più tu che la scuola elementare con la scuola bus. Sì, è mio, però meccanico non c'è niente qui, c'era stato qualcheduno così, hai capito, carta travel. Hai fatto male che non sei venuto a trovarmi, a che ora era? No, era a mezza mattina, però ho cercato di guardare dove potesse essere l'antenna, ma no, aspetta un attimo. Stavo dicendo, però non ho individuato nessun tipo di antenna, quindi non ho capito dove fosse il tuo QTH, capito? Poi io abito sopra dove c'è la piazza, che peraltro stanno aggiustando, finendo la pavimentazione, tu per l'applicato, e altro, hai fatto male a non chiedere, perché eravamo che non sempre, diciamo, a casa la mattina, e sapevo hanno qualche eccezione. Comunque, ti vanno fatti a Pomponio o a Gian Maria, avanti. Preferisco Gian Maria, che con Pomponio non tratto. Ciao, buonasera, ben risentito. Fate che ti ho sentito. Ieri ti ho sentito, dai. Ah, ma ci siamo sentiti? Siamo sentiti, ma qua sulla 27 o in alta frequenza? Sono andato là a trovare un amico, ma via Mattiocchi, e nemmeno fatta apposta, stavo ascoltando questo amico, proprio a voi stavo ascoltando, allora mi sono messo ad ascoltare anche io, e ti ho sentito. Ah, in alta frequenza, lo so, io non sto ancora uscendo come devo, perché c'è troppo freddo e obiettivamente non ho voglia di salire sopra il terrazzo, né tantomeno me lo permette un attimino gli orari di lavoro. E quindi non sono al top, diciamo, per la trasmissione, dai, non mi sono ancora attrezzato. Ma infatti non è che sei stato bene bene pure. Piano piano, alto, piano piano. Lei ti ha salutato. Voi sono scappati. Non c'è problema, dai, adesso appena si rimette il tempo o qualche giorno di un attimino di ferie vado su e piatto anche, perché anche quella della 27 un attimino si è piegata, capito? Ho fatto una giornata particolarmente ventosa e mi ha piegato il palo. Comunque, già la rimettiamo a posto. Ti prendi Gianni e fai girare. Ok, no, io stavo tornando fuori, qui c'è il vento, ma c'è qui, ma non santa. Molto speriamo che lo esatti lì, no, ma abbiamo fatto un buon gol, non è accorata, non è molto alta, e se no dovrebbe sparare anche di più la mano qua. Però sto a vedere un filo centrale, mamma mia, perché che non ce n'è neanche a vendere a Sassari più di questa mano qua, adesso perché no, infatti non la sollevo di palo per quello, esatto, hai capito, e poi nella età la pazienza, riprendi a Tomello. Se te la butta giù te ne compri un'altra, qual è il problema? L'importante è che venga il palo per te, che facciano sopra il tetto. Poi se si aspetta, pazienza, già si può comprare. Ma non ce n'è a Sassari ancora, era l'ultima quella, e mi sembra che l'ultima la vada a me, sì. Sì, ma c'è internet, c'è bisogno di andare da Sassari. Te la butta fuori, e 3-4 giorni te la spediscono subito. E magari ti costa anche di meno. Oh Gianni, eccomi. Grazie di queste ultime, sempre con l'ultima, perché anche a me aveva dato l'ultima che avevo, adesso non so se a te ha dato la stessa, ci cosa hai preso, la turbo? No, io ho la manto fa 5 senza essere turbo. E allora è anche migliore di quella che ho io, perché se il vecchio modello è nettamente superiore. Ma invece ha venduto la turbo lo stesso, era l'ultimo, mi sto trovando abbastanza bene, non è questa, questa è la Sirio 2008. Però la turbo è molto più performante, diciamo, oltre che c'è lo stile centrale che è molto più grosso di questa qua. Ok, sì, la vista quella di Raffanino, la turbo, è bella. No, finché dura lascio questa, ora il cambio. La cosa l'ho avuto in dono questo apparecchio dal mio amico di Porto Torres, che ne ha anche tanti altri da cercarli, l'altro amico e collega che è Fulma. E ci deve essere il rotore, perché c'era una direttiva, Claudio mi ha confermato, e anche un lineare grosso, hai capito? No, perché mi sto mettendo un po', adesso ve lo dico così, a studiare in internet, per partire, ma non per adesso, io sto temendo, siccome ancora non esco molto, a vecchiaia, di rimanere solo, invece se mi prendo la patente, e sto sempre nella radio, e ho compagnia, capito? La vecchiaia, se ci arrivo, mi assorbo, mi succedo delle cazzate, però c'è questa cosa mi fa compagnia, capito? Io non esco, non ci ho molti giri qui nel paese, quindi questa roba sarebbe l'ideale quando c'è una tempesta, se ce la facciamo il buono, riprendi Gio Marino. La cosa è certa, che se uno veramente appassionato a queste cose, vedrai che se vai e ti metti impegni, ci voglio, per cui ti metti i propri impegni e vedrai che ci riuscirai. Bisogna decidersi, devi riuscire all'interno tuo, c'è poco da fare. Se ti piace, che c'è passione, per cui devi studiare. a darci, vedrai che ce la farai anche tu. Io voglio fare i complimenti anche a Antonio che l'ho sentito ieri sera e mi fa piacere veramente. Grazie a te giovane ancora voi per cui lo potete fare, certo che non è, io non ho assolutamente, per cui non per me mi va bene, sono 27 e sono tranquillo, ma voi siete giovani, avete ancora tutta la vita davanti, per cui fate. Mario, io ti ringrazio, non è una cosa di elite però essere radioamatore, è solamente qualcuno che vuole fare la radio in maniera diversa, quindi chiunque è rispettabile, ci mancherebbe. Io l'unico consiglio che posso dare a Gianni è questo, come dice mio padre, tu ti metti a studiare, ti siedi, ti trovi una bella sedia in legno, col pianale in legno, ti siedi, ogni tanto ti devi toccare il fondo schiena, quando ce l'hai della stessa consistenza della sedia, allora vai a dare l'esame, anche se pensi di non saperne, e vedrai che lo passi. Io Antonio, mi sono collegato a questo sito, c'è questa roba che sono il test delle domande, e finché non azzecchi 7 domande in ogni cosa non passa all'altra pagina successiva, e prima è pronto, non ci stiamo fidando male, stiamo andando bene, perché ve l'ho ripassata 10.000 volte, e capite, piano piano stanno però poi, preso dall'impegno della lavoro, una cosa e l'altra devi muovere, poi stanno facendo il computer, e stiamo pigliando, lo sto sempre leggendo, roba di elettronica, ma io sono così, perché un domani mi piacerebbe stare sempre con queste cose, con tanto di rispetto sempre alla 27, che diciamo è stata trampolino di lancio, la cosa che mi ha imparato a camminare, che capisco che non abbandonerò mai, però a vecchiaia io non vedo per farlo, ne so molto, poi se posso guidare la macchina più, e come mi chiede, e invece qui, come si chiama, sto a casa e la passione c'è, capito, e c'è i suoi amici, hai capito, e chiacchiero, non è che pugliare su qua, polarizzare, o nella piazzetta, come stanno la mattina quegli anziani, mamma mia, siete in vita, riprendi un po' me. Andiamo al circolo, cosa piazzetta, lì a noi ci divertiamo, facciamo una pattaccata, ci attuffiamo, ci mettiamo, rimaniamo a voci, siamo a posto, poi quando diventa che non c'è altro attacco. Io devo entrarcimi, qualche volta che ci sono entrato me ne sono andato subito, di domani mattina mi hanno detto già come te ne sei uscito, ha detto uno, a questo gli ha tirato il bicchiere in faccia, nati, gli ha fatto non so che cosa, sono intervenuti, e gli ha fatto bene, che filtro vago, che entro proprio a prendere, come se non è che non so socievole, per carità, perché so che lì capita qualche cosa, ogni tanto succede, io non mi voglio, non mi spiazzo in certe cose, riprendi a tu. Ma sicuramente bisogna passare, diciamo, le ore in maniera diversa, più costruttiva, poi non sono d'accordo su quello che dice Gian Maria, perché non si è mai troppo grandi per andare a dare l'esame, anzi, ho visto una persona che ne aveva lì 80, un altro che ne aveva 76, non sono passati, perché evidentemente non avevano studiato, però poco c'entra con l'età, evidentemente. Purtroppo si ha a volte la presunzione di passare questo esame senza andare a studiare, io ne sono l'esempio, perché il primo ho cercato di passarlo così, quindi ti dico, considerando che gli ultimi due treni stanno passando, perché dopodiché sembrerà che tutto si trasferisca a Roma, pensateci bene, perché faranno questa sessione autunnale e forse, anzi estiva, e forse ci sarà quella autunnale, dopodiché tutti a Roma. Stanno già andando a Roma, stanno già andando a Roma, così che per cui infatti trasferisco tutto lì a Roma, chissà perché, ma non ci sembra che uno che deve andare lì a spendere un sacco, passano il percorso da qua a Cagliari, se tu vai a Roma è un macello, non basta i soldi che ci vogliono, come fai Antonio, non è possibile, dai, non è possibile, chi può magari lo fai, ma lo sono tutti, dai. Io sto sentendo, scusate un attimino, cioè mi sta arrivando il splatter un attimo. Ho sentito a me già. Sì, quello lo può fare Antonello, che gioca fa anche lui. E lui lo può fare. Antonello, se decide si dà. Stai fresco tu che io faccio. Tu non ho nessuna intenzione di spendere i soldi così. Capito? I soldi che ci perciò e che li tirerò li userò in altro metodo, capito? Che è molto, molto, molto più conveniente e mi diverto ancora molto di più di come sto divertendo adesso. Ieri io sono una persona anziana, però, e questo è un vecchio radioamatore, vecchio, se viene quella stazione ti mette le mani in testa, per carità, che si asciuga. Però non vuole sapere per il motivo che i giovani si comportano in quella maniera, ecco, e non gli piace entrare, anche per quel motivo magari. Qualche volta si entra con qualche persona magari della sua età, però con i giovani non li va già, chissà perché. Ma sta arrivando qualcuno di terzo giornale, sta trattando qualcuno, non riesco a capire chi sia, c'è qualcuno sul canale 16 che pare con gente della sua età, tutte queste cose, anche Beta Verde era radio amatore, mi ha detto un pochino, lo sai, ha detto già che mi hanno ritirato la patente a me, l'hanno ritirata, perché ha detto era successo, come si chiama, un litigio, era successo, aveva parlato male, aveva parlato e gli avevano fatto un esposto e mi si raccaglieranno con la tua testa. Ma a me sta arrivando qualcuno, mi sta trattenendo sul canale, ma c'è qualcuno sul 45 per caso? Non lo so, anche perché sono questi tre canali, non lo so. Ma infatti io lo so già, stavo andando a Cagliari, stavo andando quando ero proprio a litigare, stavo andando a Cagliari, infatti li hanno ritirato, io lo sapevo già, poi non ha fatto più, no, poteva fare anche un ricorso, gli avrebbero ridato dopo tanto, però dice non gli interessava, per cui non si è dato da fare, capito? Sì, lo so, lui era un dio, era dell'elettronica e aveva vinto anche un viaggio, me l'ha fatto vedere a me, a premio con un altro radioamatore di mi sembra o di Roma, di quei giorni, un viaggio a premio in Russia aveva vinto e mi ha fatto vedere le QSL, aveva parlato niente poco di meno con Riusei di Giordania, Dio Maria, detto che aveva anche parlato con Riusei. Ma prima la cosa era diversa, capito? Mentre che a fare i collegamenti come li fanno adesso era un po' difficile prima, capito? Era molto difficile e adesso invece è facilissimo, capito? E mi ha raccontato tutto, capito? Per cui no, era una brava persona, poi ci dava da fare veramente. Chissà la volta come ha fatto a entrare in questo discorso di fisico e gli hanno ritirato veramente. E poi, anzi, gli hanno dovuto ridare, però doveva fare la domanda e non l'ha fatta. Ecco. E gli avranno detto già come si chiama, era un tipo che non si faceva mettere sotto i piedi, non si faceva mettere, lui aveva la linea geloso, aveva, me l'aveva raccontato, quando me l'ha detto con pugno anche pianto, talmente era una persona che mi voleva bene, io volevo bene a lui, alla famiglia, le avevo conosciute, ho anche pianto, mi come ripresi. Scusate, rimango il QRX un attimo. Ed è vero comunque che purtroppo l'altro San Giovanna non ho già detto niente, anzi è matto anche più così, infatti ho già capito chi è, sono quello di via San Francesco, e mi ha detto sì, lì c'è quello lì, mi ha detto, ma io l'ho conosciuto a lui, al centro storico insieme a all'altro della moto di Rarimattore, figurati, ma ora mi ha chiesto un pochi comunque, che modo, non è che siamo tanti, più che altro sono tutti uno da parte e uno dall'altra, ma sono tutti assieme, capito? E poi mi ha regalato, ce l'ho ancora, il tensipso. benissimo da Parla Mobile, ma anche da stazione Pisa può essere più due adesso, però più iniziamo con la Parla Mobile, tutto cromato, dov'è che il Trentino praticamente al Somercamp PS340, ha detto io ho già detto non ci vedo più, c'è come si chiama dello stadio finale qualche pezzeria, però riceve per bellissimo, col microfono non è a rotella, con la rotella rossa, hai capito, mi faceva dei regali, mi aveva regalato l'oscilloscopio, vabbè adesso no, poi era fermo, non funziona più, perché era roba a valvole, e il generale l'oscillatore modulato. L'altro che era della USA Army, che è rimasto nell'apparatorio enorme, col frequentimetro, gli ho detto già, quando muoio te li fai dare, ne sono preso, io mali se ancora l'hanno pulito la prima il laboratorio, io l'avevo perso di vista e riprendi. Ce li aveva, amore pure con gli strumenti che aveva. Paolo era l'unico che poteva toccare, diciamo dopo però, dopo, che Giorgio, quello cagliaritano. Quello sì era bravo, veramente come tecnico, come apriva l'apparecchio, sapeva già cosa dovevo fare e ti faceva il lavoro ben fatto veramente. E Dino, lo faceva già, però se li devo portare via gli trovavo fra un paio d'anni. Oddio, era più per le valvole, sì, riparava i paracchini. Pier Giorgio è morto, Panther, eravamo amici anche con Panther, e poi era andato lì a Cagliari di nuovo, e io era il periodo che mi ero arruolato, e capito, l'avevo perso, poi mi avevano detto che era morto, è morto anche giovane, insomma, e lo ricordi, no, Panther, in via Galileo Galilei. Come non me lo ricordo, ma mi sa posto la linea Somercamp, l'FR50B, l'ha messa a posto lui, capito? Per cui, ecco perché dico che sapeva, aveva anche gli strumenti lui, capito? Mentre che Dino non è che aveva tutto, magari era più alla chicca Dino, capito? Però quello là, Marazzotti, quello era forte perché aveva strumenti moderni, capito? E corro, Mariolino di Alghero era un ottimo cliente, mi stava sempre lì. Antonè, lì da Panther, l'avevo visto per la prima volta e non era neanche una stazione saldante. Questo saldatore ci aveva, Antonè, che mi saldava e saldava, però non senza essere stazione saldante, non l'ho mai trovato a comprare, non so da dove cacchio l'aveva preso. Non ne ho visto mai uno di quei saldatori. Di solito sì che era stazione saldante con dei saldatori che uno li salda e uno salda. Non ci aveva, se questo sia saldava che li saldava. Non so ancora se tu li hai visto mai. E non mi dirà cosa. Da Prospero li ho visti quelli, quando lavoravo l'apparato era lui. Ce l'ha, c'è anche l'aspiratore addirittura, quello al motore che aspira, capito? La salva pura, troppo giù il coso, schiacci il pulsante, ma come quello che uso per il tipo quello che uso per trovarti le orecchie, adesso, che ti appoggiamo con la palla dentro l'orecchio, lo schiaccia e aspira, capito? Sono affascinato all'epoca, stiamo parlando del 77, quando ero ai geometri, non ne avevo mai vinto, ci andavo spesso e lavoro ne aveva, perché vedevo che c'era lo scaffale dei baracchini che doveva riparare, era sempre pieno lo scaffale, e poi all'entrata, insomma, se ti ricordi, c'era quel mobile in legno con gli apparecchi già riparati, col bigliettino sopra e una piccola vetrinetta, perché vendeva anche qualche cosa di tipo microfoni e roba. Ti dico, veramente un bravo tecnico, e riprendi, insomma, di tutto. Chi vuole entrare avanti? Buonasera, mi senti insieme con Gianni Di Muro e Antonello Pomponio. Vai Antonello. Ok, ciao Gianni, saluto, mi hai sentito bene in tratta. sono a casa. Quando rientro, non è che gli arriva una voglia di entrare al baracchino. Però io già ce l'ho sempre, non preoccuparti. C'è sempre il Cremu, dice sempre anche il 2009. 20 anni tutti e due ci hanno e passa quegli apparecchi qua. Cioè, da quando sono andato via, sì, che me l'avevo comprato quando abitavo via di Sido, il Cremu l'avevo comprato, mi sembra, 8, un annetto prima di andarmene da lì. Non ho capito, il Cremu? L'avevo comprato da Claudio io, ma la Claudio l'aveva tenuto mi sembra un annetto, non di più, come l'aveva data a me la nuvola, non me l'aveva data, e tutto va, vabbè, sbiadito adesso un po', a forza di pulirlo, si sbiadisce la vernice originale che è leggermente più scura, però adesso c'è tutto, le scritte ci sono, capito? Comunque già funziona bene, grazie a Dio non ho mai avuto problemi. Come si chiama il cursore della portante, quando lo schiaccio non me la dà più, adesso l'ho portata, ho portato tutti i cavi, sono a posto. Io l'ho cambiato, sostituito, vabbè che era un microfono vecchio, ma me l'avevo regalato. Adesso quando vedi me lo prendo, quel coso. E così dove sistemo, c'è almeno un microfono amplificato di riserva. Il tassino si è rotto, è strano. Già un altro microfono è capitato che c'è il tassino difettoso. Adesso dato che ci sono, ne prendo due. Monta il pulsantino deve mettere 100 in pratica, quello della portata, solo che è piegato per un pochettino di su, e a L in pratica. Io devo sostituire, siccome ognuno va diverso, non va bene, quindi anche gli faccio la modifica adesso. E vabbè, già c'ho questo saletta, poi c'è anche un altro di saletta da sistemare, con l'eco, quindi già ne ho i microfoni, non è che rimango senza, poi già ce ne ho qualche. Se non riesco con questo, riesco con l'altro. Infatti mi senti bene con questo. Sì, capiamo molto bene con quella carica, capiamo. Ecco sì, con il 2009. Sì, sono col 2009 adesso. Meglio così, sono contento. L'altro invece lo direi tutti, saliti. Sembra che subi più vero. Ciao Luca. Ciao Gianni, ciao. Aspetta, mi dice c'è l'importante, l'amico. Avanti, prova a controllare i macchini e il microfono. No, l'importante è proprio sì. Radio zero, proprio niente. Si sente l'importante, ma radio è proprio zero. Controllati i macchini, un volume del microfono. Niente, neanche adesso. Stai uscendo, no? Luca! Luca sono io. Cosa? Ma non sono io che ho detto di portarti, io sto uscendo, no? Penso, aspetta che passo. Aspetta, ok, mi senti adesso? Sì, lo so che non sei tu che sei uscendo di portante, è un altro, uno in macchina, Cioè, so che tu mi stai uscendo bene, sono stato risposto poco fa. Antonello! Adesso stai uscendo. Ehi, ma sta fischiando, guarda, senti? Leggero, ma già ti sento bene adesso. Sono con il microfono normale, con l'altro non riesco a uscire, boh, non ho capito perché. Sarà il potenziometro senz'altro, la vetta del pulsore, va? Ricordo che sei con il microfono normale, dici bene. Ehi, com'è attaccato, guarda, senti, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua sono sulla Budebusi. Già stai scendo bene, 9, 10, 6, radio 5. No, adesso lo spengo, guarda a vedere. Santiago 9. Dove c'è la Tigia, la Cobbe, c'è quella zona lì, sta accompagnando il bambino. No, perché io sto appena prendendo la Budebusi, se no c'è la buona cosa. La sto appena prendendo, dai. Ah, va bene, allora, con questi greca. Sta accompagnando il bambino a casa adesso, dai, già. Con la radio, lasciali questo, che va bene, sembra più in casa. Caffa, va bene. Microfono è quello, Gesù. Sennitec, il tuo normale. Va benissimo, è quello che portavo, quello che c'è. Ma quale c'hai? 500 S? No, non so cosa è, Antone, che cosa è quello? L'Intec che quant'è? L'Intec 340 e basta, quello senza MFM, cioè senza l'FM, c'è solamente la M. Già l'ho avuto anche io, ma l'ho fatto Stefano, a me quello lì. Pensa appena ho venduto tre di quelli, figurati, anzi quattro ne ho venduto, per esattezza di quei baracchini. Uno c'era, come si chiama, quelli della giosta, ma per loro c'era uno di quelli. Ah, cavallava, ma siamo venuti stati anche a parecchi per fare a quelli di me. Poi avevo già stato pagato da parecchi pure, sì, esatto. Uno avevo venduto di quelli, poi altri due avevo dati, uno c'era il cugino di Fabietto, quello che abita qua a Caponazzi, e l'altro c'era un altro, non ricordo adesso come si chiama. Comunque avevo venduto 3 o 4 di quei 34 canali, uno era addirittura MFM, ti ricordi? Era un tecnico che era morto, si chiamava Di Maria. Ma comunque vanno molto bene quegli apparecchietti lì. Hanno la luce verde, mi confermi, dire? È un buon apparecchio, si sente bene, vabbè, per quello che è stato, per fare quella questione là, già, che stamattina. Ieri mattina abbiamo spedito il versamento di 12 euro a Cagliari, almeno sono più tranquillo. Meglio essere in regola. Papà. Ho fatto un altro il versamento per non sbagliare. Io già l'ho fatto ieri mattina perché avevo quella possibilità di fare, ho detto beh, c'ho in questi soldi, adesso me lo faccio questo versamento, a meno c'è la pila in culo, tutto quanto. Ma c'è tempo fino a fine mese comunque, dai, già sei in tempo ancora, a voglia. Avanti, ritintin. Che cappa, già va bene, bisogna spendere i soldi ogni tanto, quando uno vi soga, mamma mia, ogni crisi. Che cappa, figa, siamo qua, adesso stiamo prendendo la discesa di Sant'Orsola per accompagnare il pargoletto, tutto quanto, a casa della mia ex. Ah, d'accordo, sei passato, c'è un 31 allora. Dove passi in pratica, dove c'è passaggio a livello? No, io prendo la Buriburi e scendo, giro per Sant'Orsola, hai capito? Non passo da 131, passo da giù dalla Buriburi, poi giro per, faccio la rotatoria e giro per Sant'Orsola. Ho capito, vicino a casa di Daniele, in pratica. Ma abita anche lui a Sant'Orsola. Ci ha fatto bene. Una cosa, Antonella, ma qui in via Cesaraccio c'è un palazzo con due antenne, cosa sono, radioamatori quelli lì, oppure CB? Due volte oro. No, radioamatore è quello, già l'ho visto anch'io, sono due antenne, una verticale, c'è lunga, un'altra verticale lo stesso. Già l'ho visto anch'io lì in via Cesaraccio. Abitava anche io lì vicino, lì proprio Bocciardi, lì vicino via Cesaraccio, che è morto. Poi c'aveva la KB23, c'aveva quello baracchino. E poi un faccia che mi sembra 123. Vabbè dai, 5 minuti di bianco per me che sono arrivato, dai, riprendo fra un po', dai. Adesso accompagno il bambino e riprendo subito, dai. D'accordo, ok, andrà bene, avanti Gianni. Io sono quasi arrivato, sono alla rotatoria della Feroce, sono subito arrivato, così mi faccio una bella mangiata, sono stanco molto oggi, non vedo l'ora di sdraiarmi e di fare quattro chiacchiere. Adesso ti siedi a tavola, ci metti i piedi sotto alla cosa, cominci a mangiare un bel piatto di ravioli, poi un bel pezzo di porcetto, poi un bel po' di lattuga, poi prendi Viagra, chiudi la porta e stavolta faccio cucciù. Così è. Il menù è sbagliato, oggi ci sono melanzane e la parmigiana, perché stamattina l'ho aiutata io a friggere, quindi devo fare la parmigiana stasera, che c'è gente. Poi ci sono un po' di gamberoni che ci sono rimasti da mangiare, una scatola, e ci finiamo. E però si passa cosa farà, mi pare che voglia fare fettuccine all'uomo. Che cazzo, me la dare a quest'ora, ma neanche se me le regali te la mangio io. Non riesco a mangiarli io le melanzane. La volta che sono sceso a Cagliari una mattina presto, che sono andato, visto lei quel bar che c'era sul 21, dopo le gallerie, da Brisci, sono entrato lì e c'era un panino con le melanzane bollente. Come sono andato a mangiarle verso le 8 del mattino un vomito, mamma mia, le ho vomitate tutte e poi a diarrea, tutto il manzano attaccato al cesso io. Sì, magari non avrebbe risposto, è risposto tu, ma io le ho sempre mangiate, i peperoni no, i peperoni di notte non li posso mangiare, ma le melanzane non me l'ho mai fatto lui. Lo sai che i peperoni me li mangiavo anch'io un bel po', adesso non ci riesco più a mangiarli. No, mi sono pesati anche quelli. Qui mi mettevo anche nel mezzo alla pizza addirittura. Contavo la pizza dallo spin, di quelle rettangolari. Ci mettevo peperoni, ci mettevo cacciofini, la riempivo bene, capito? Tonno per dire. E dovevo stare fino a mezz'ora in piedi, camminando per poterla digerire. Lo so, diciamo che le mangio anch'io quelle pizzerie, sono buone. Sono molto buone, però dirò che sono pesanti a mangiare con peperoni. Infatti, quello, no, sono buone quelle pizze. Se mi metti tu parte il completamento di quelle di lo spine, la margherita, che poi c'è anche il lido uguale, cioè. Quindi la margherita di quelle ci metti il condimento tu sopra, sugo, formaggio, per dire, cacciofini, quello che c'è lì c'ha. Sono molto buone, sono anche morbide da mangiare. Non sono di quelle pizze tonde secche, quando vai a mettere dentro al forno sembra che stai mangiando cemento. Sì, sono buone, se le sai cucinare bene sono buone. Io lo faccio sempre con le cipolle perché mi piace un bel così. Lo so. Sai quanto ne facevo di quelle pizzette quando abitavo al centro storico, le brasiliane? Venivano lì, mi facevo di mettere quel condimento sopra se le mangiavo la pizza. Ma quello che le facevo? Le brasiliane, le nuove peruviane, mangiavano quello e le bruschette mangiavano, erano amanti delle bruschette. E più c'è il servizio che mangiavano. E se no cosa succede mio? E vai, non ci credo. E non ci credo, vai, cosa ti dica io? Finia, di cacciati, un po' finia. Zitto, tu zitto, che ti faccio la prova con caffè a te, zitto. Qui la faccio, Sabettino? Sì, mi sembra che è rientrata alla... Tu abiti al padre adesso, in Toscana mi sembra che abiti. C'è un'azienda, c'hanno. E lì, abita lì. E se me l'ha allungata, adesso c'ha 19 anni. No, 18 ne hanno, 18 ne, giusti. Tanti vuole il primo letto, direi parlo 20 anni. E quella ragazza è già bella fidanzata e sposata, perché loro si sposavano a 18 anni, i cinesi, non dirlo a me. Avrà già anche figli, non preoccuparti. Se tu non hai figli, che te fate nuova impressa? Io sono così, ma sono 20 anni, sono già sposati con figli. Non dirà a me che ne conosco parecchi di quei cinesi, tutti giovani sono, 19, 20 anni, 19, tutti così sono. Bobo? Gianni, diventa così. No, mi sono fermato io che non fumo la sigaretta. Però non l'hai smesso, io devo ripreso, vai. Sì, si rompi del luce. Ogni tanto una me la... Ci sono i sigari alla vaniglia, 5 sigari, 1 euro. Nel tabacchino, alla vaniglia, al cioccolato, all'arancia. Buoni, pappa, carità, mi metto un panino. Con un euro, ogni 50 centesimi per un panino, no? Cosa sto dicendo? Io mi tirata volta e ho comprato un pacco di quelli. Ci vuole un po' di fegato a fumarli, Certo, signore, pelle. Io fumavo quelli all'anice, ma a parte di schifo, ma poi a parte... uno schifo, tutto, le sigarette, uno schifo, è uno schifo. Lo so, chi cazzo che vuole sigare in pelle, avanti. Cacarrette. Uno che ha detto che c'ha il sigaro in pelle, avanti. Poi, ho rientrato, Sì, che non la fumati, dici già, ma tutto un bruato, che acqua senza filtro. È una tanta, che schifo, mamma mia. Eccolo là! Schifo. Allora, quando ero piccolo, avevo 13 anni, ci compravamo le sigarette di nascosto di quelle sfuse, perché le prendevano per dire una sigaretta costava 10 lire, 20 lire, capisco. E ci compravamo le sigarette di sfuse perché non c'eravamo soldi, quando buscavamo i soldi ci andavamo a fumare nei cantieri, sembrava che stavamo rubando. Così mai? Ma come non funziona sto cacchio di cosa, boh? Che casino è sto fatta qua? Io me ne nascondevo nel contattore dell'acqua. No, 13 anni, 12 anni, 13 anni. Non mi ricordo, cazzo, dice la mente di coglioni. Me ne nascondevo nelle carte le sigarette, però poi alla fine me l'ho sgamato. L'odore addosso, io portavo una sigaretta e che carletto, ma guarda la bocca su quei pareti. No, ma tutto in mezzo, in mezzo alle mutande di sigarette, se no mi sento, no, questo odore è normale. E poi cosa è successo? Che quando ho fatto 18 anni praticamente ho detto, mamma, sto fumando, e non mi ha detto mamma, ma non me la butti a me, fuma. Mica gliene fregava lì. Ma un cuba sogno. Non gliene fregava niente già. Ma chi fuma è Giuseppe, vero Giuseppe? Mi ha dato una salsiccia, la prende il coltello e la taglia. Giuseppe. Sì, ci ha fatto in fretta arrivare a casa sua, ma con... a te dove sono posto, in due minuti. Ma sono qua, sono qua. Sono acceso un attimo. Era fare una questione, dai. Ah, mi ci hanno addosso, si sta rimarrato. Cos'è? Il parlato di vecchiami? Tu ti stavi pisciando, se non ti sei fermato, perché lì ci sono le donnacce. E gli stavi chiedendo se si trovavano gratis. Ah. No, lascia perdere io, che a Negre non ci vado io, hai capito? Già ti porto di domani a Negre, da? Se me la paghi, Antonello, io ci vengo volentieri, Già ti porto di domani, non ti preoccupare. Noi pigliamo qualcuno che ci ha messo la testa dentro alla Ciminea. Ti barrato. Avanti, sigaro in pelle, ci sei. Chi è questo sigaro a rotelle? Sigaro a rotelle. Chi è? Luca è Montedemolo. Faccio altro le mutande, Giuseppe, mica lo fumo io. Lo faccio fumare io. Beh, Lucrezia, buonasera. Fumare vuoi pure tu? No, non ho bisogno, ce l'ho già in bocca la sigaretta. Come sempre però. Mo dove parliamo bene che c'è un bambino qua di fronte a me. Tu sei in parolacce, allora faccio il volume e poi lo preparare e parli. Questo me lo apre. Non me lo apre, c'è un attimino. Scappa. Ciao, signore in pelle. Buonasera. Appa, buonasera, ciao Pomponio, Gianni, Giuseppe, Luca. Ciao, molto sei imbarrato. Ciao, Giulia. Giulia, c'è una rotella. Io c'ho una rotella e ti vediami. Imbarrati a tutti. Ombre, ombre. E allora. Il Pirangio, la volta che c'era, com'era, Portigalli, e invece era Portugal, questo qui in Portugale, lui, qui in Portugale sta chiamando. Non lo so se si è chiuso lui. Ah, sei tutto trattato, lui, non ti capisco, cosa? Sì, no, non lo so se si è chiuso lui. Beh, sono entrato per salutarvi che mi sto lontanando dalla radio, vai. Buona serata. serata, buona continuazione a tutti, ci sentiamo domani se coincide. Vi saluto, sono entrato per i saluti, ciao ciao. Ciao ciao Massimiliano, buon continuo serata, va. Ci sentiamo. Avanti, Leoncino. Venga, adesso sto partendo, dai, direzione a casa. D'accordo, ciao Massimiliano, ci sentiamo, con così buona cena. Quelli che avete a casa adesso, Giuseppe. Sono qua, adesso sto girando qua per il Ponte Nuovo, Ponte di Sant'Ofra, direzione Buriburi e poi me ne rientro a casa. Gatta, gatta, me lo risparmi un pochettino. Oi, oi, avviene il freddo? Abbastanza. C'è freddo davvero questa sera, sono sceso, uscito io, non l'ho fatto. Sta cominciando a infestare in culo qua la cosa. E domani ha messo acqua, domani ha messo pioggia domani, per domani. Già lo so che ha messo pioggia, è solo vento l'altro giorno, mamma mia, mi passa del vento, mi vea. Sentivo l'antenna, faccio gring gring gring gring gring, infatti non ci sono neanche uscito fuori a controllare se c'è ancora. No, io stavo chiamando, ho partito i radiali a me, a Trocchè, a Tonè, in casa, non si sa mai, tanto, una di questi venti, tanto, me ne buttati un'antenna, a Trocchè. Sì, i radiali già non ti fatto, non ti preoccupare, sono stati bene. Capra. Se l'avessi messa più in alto, sì, allora avete ballato forte già. Anche perché bisogna cambiare tutte quelle staffine che valeva. Bisogna farle fare un buco con la parte del scalpello e infilarci di quei col cemento, farle asciugare una settimana, dopodiché è pronto a installare, almeno non detto di più e ce la piglia in culo. Giustamente, almeno abbiamo finito di soffrire. No, c'è la piatta sul tetto, Antonè, è troppo 4, eh. Ah, beh, se la piatta sul tetto è un discorso diverso, ma devi avere la scala aerea, già lo sai che problema che c'hai tu. A meno che non te ne butti l'antenna centralizzata, chiamati il tecnico e allora non fai altro che capito, di dire la spesa al limite per l'affitto del coso, si sale su e si fanno due buchi sopra, si sale davanti sopra, però non ci può più salire a metà a posto, rimane lì dimenticata con l'antenna. Lo so, e quando c'è stazionario c'è un bel problema, così viene meglio a controllare dove è adesso l'antenna. Se l'ha tanto sul tetto sono affari cinesi. Allora io vi saluto, sono arrivato, ci sentiamo, buona serata a tutti. Ehi, ciao Gianni, ci sentiamo, alle prossime. E Giuseppe, come chiedere lì al costruttore di farvi la botola, mi trovo già detto l'altra volta. Ma te lo chiamate e ti fa la botola proprio sopra, vicino all'ascensore. Fa un buco di là sopra, fa la botola, sono penso che sia già predisposta senz'altro. Ci sarà un tappo sopra, basta bucare. Fa la botola in legno e potete accedere direttamente sopra, se no è impossibile salire su, è un casino lì. Lo so, Antonio, vabbè adesso, tanto adesso abbiamo messo il copo dei progetti, abbiamo depositato il progetto per aprire, hai visto la cucina dov'è? Apriamo lì e facciamo un'altra stanza, hai capito? E dunque facciamo le cose come Dio comanda, capito? E il tetto di voi non vuole fare lasciato così con me come ce l'hai? Quello è legno. Se lo fai fare, lo fai fare direttamente in cemento e gli fai fare la botola e sta direttamente da lì, dall'angolo dove c'è l'antenna tu. Gli fai fare una bottolina con una scaletta lì agganciata a muro, di quelle messe in verticale, fate il ferro e sta lì sopra quando vuoi. Se no è un casino, a meno che non la fate fare la cosa. Mi ci va l'ascensore, la bottola e basta. Vabbè là. Ok, vabbè là, fammi salutare Gianni. Ciao Gianni, ci sentiamo tutte le prossimine, se concilio, dai. Buonasera Tacca, buona serata e tutto quanto, vai. Già chiuso. Figa. Luca! Oh, non c'è più nessuno? Deve essere fumando, il zigato toscano. Il toscanello? Di pelle? Allora, tanto costa un euro quei sigari, Giuse, un euro, ci sta i tre giorni a fumarli tutti e cinque. Sì, va bene pure, secondo me ci durante una settimana. E sono frutti, costa un euro ma sono frutti. Allora, a meno che adesso vi dico la bisogna fare questa penna, ma questa penna, questa sigaretta elettrica quanto viene. Adesso guarda, la gente va in edicola 5-6 euro con 20 euro comprarsi la sigaretta. Staffa. Gloria, per carità. Sempre bene, ma ascolti, sì, Antonio. Sempre bene, 9-10, 6, radio 5. Staffa, là. Io sono quasi arrivato a casa. E c'è un buon segnale. Sempre 9-9-10, 6, e non ci sono problemi. Sto parcheggiandomi, perché chiudo la macchina e poi mangio qualcosa, perché devo prendere la partita per il Corriccioloro e poi riprendo. Va bene, dai, sentiamo dopo al limite, buona salita a casa. Attenzione su 5. Avanti, chi è? Buonasera. Buonasera, ciao Daniele. Allora, si dice? Sto bene? Tutto a posto, e tu? Sì, insomma, così, beh. E allora, hai già cenato? No, sono in attesa, ancora qua, non è pronto. Ah, cappa, va bene. Io ho già fatto, già l'atto. Beato te. Io ho dovuto cenare presto perché dovevo prendere la pastiglia, capito, Daniel, per il colesterolo. Brava. Ah, non c'è nessuno stasera. C'erano 10 minuti fa, le 8 neanche, c'era Gianni, c'era Luca, c'era Alessio e poi deve essere sono andati a cenare. Io. Andale. Sempre bene, tanto è un mio apparecchio, come mi ascolti? 9-10 e picchi positivi, radio super 5. Ricambia il controllo, Daniel. Ma sì, 9-20 e radio super 5, va bene. Ottima per la truffa, va bene. Già sta andando ancora questo piccolo baracchinetto, piccolino. Già viaggia. 5 watt, cosa pretendi, Ilani? 5 watt di baracchino, ha voglia che ce n'è, per farci sentire, ce n'è sino a Campomonto. Sì, aia, già andrà bene l'era. Io l'ho acceso lo stesso stasera, anzi era acceso da quell'ora, però non era a casa, io ho capito. L'ho acceso, poi sono uscito, era diciamo volume basso, giusto per farlo scaldare. Adesso stavo vedendo chi c'era e ho trovato a te. Ma detto che riprendevano dopo. Adesso vediamo, aspettiamo un po', poi se non vogliamo riprendere, ci sentiamo domani. Va bene. E allora, dove racconti? Nulla di particolare, dai, per carità. Sempre tribolando a cercare lavoro, consegnando curriculum a destra e manca, in qualche cosa di rappresentanti, quella roba là, di supermercati, e dice facciamo sapere, però risponde il logo. Le faremo sapere. Guarda, c'è un sito, lo fare sempre in televisione, a parte il violino, adesso mi ricordo bene, per fare i corsi di formazione, che non c'è limite all'età, non c'è neanche titolo di studio, secondo cosa fai. è K. E a mio parere, sì, quanto questa cosa qua, cioè per l'età nostra che ho io gli anni che va bene, c'è scritto che sono limiti di età. Qui sono dando un'occhiata e ti danno anche 500 euro di tipo rimborso, dai. K, cioè se capita l'aria lo prendi l'indirizzo e poi me lo fai sapere, se in caso lo vedi, lo prendi in indirizzo e me lo fai sapere, Daniele, no? Non c'è nessun problema, oppure ti lascio il mio numero cellulare e mi fai un abbasso, capito? Che sono qua a prendere il computer, non me lo ricordo, però me lo ricordo, ti faccio sapere, dai, non c'è problema. Ma non c'è problema, Daniele, ti ringrazio per averlo. Però io l'altro giorno stavo parlando di questo discorso e mi sono dimenticato tra una cosa e l'altra. Ho capito Daniele, adesso vediamo se secondo come va ce lo facciamo, cioè questo è questo posto, ci facciamo l'iscrizione e andiamo in questo corso, io dopo ci faccia. Sono proprio dite queste cose qua, che loro ti prendono e in pratica ti insegnano un mestiere, diciamo, dai. Perché hai pagato tramite la regione questo voucher di 500 euro, capito? Ma vabbè, quello che è, non mi interessa. L'importante è che a fare qualcosa, hai capito, Daniele, perché rimanere fermi così qua, mi sto veramente rompendo i coglioni, altro che. Ti capisco come, a stare un casino. Non c'è niente, Daniele. Poi, guarda, ho consegnato il curriculum anche nel supermercato, quelle di Codo, della SAI, quello che c'è in Viale Sicilia, ho portato il curriculum lì, c'era, quant'è, 2 settimane fa e ancora niente risposta. Perché loro lo prendono, tu già continuano già, capito? Mi avrei se ne consegnano pure, capito? Se non passa nel cestino quella cosa lì, capito? Quello già, che stai attenti a quello. Purtroppo, per carità. E tu dove sei compleanno, Dani? Io mi sempre aspettando, mi chiamino di là. E anch'io aspettando che chiamano, che il buon Dio ci dia la cosa di almeno di fare almeno il colloquio di lavoro, vediamo un po' di quella domanda che abbiamo fatto, ma non ci spero, però sperare è cosa, dice sperare, devi sperare che le cose vanno bene, speriamo che se vince, dice cosa. Berlusconi dice che comincia a dare già posti di lavoro. Chi lo sa? Adesso vediamo, se non si decidono a chiamare. E dopo ti dica, Daniele. È un casino contro casino. Perché ormai il discorso è questo. Abbiamo raggiunto una certa età e non ho capito, no. E persone grandi dalle nostre età non è bene, perché se no hanno detto che pagano troppo di assicurazione, dunque non li conviene, preferisco prendere un ragazzino che invece che lui, capito? Quello sì, infatti, se non ci così informazione ancora meglio. Ma ripeto, io sono ciò di vita d'età. Avanti? Sotto 351 va più rumo, avanti. Ehi Gianni, che sta facendo questo fischio? Facciamo 2 apparecchi accesi, aspetta. Veia. Ma non è un controllo, Daniele, per cortesia. Sì, 9:20, c'è troppo eco già. Stiamo facendo una prova. ma perché c'era un po' di stazione e stavo guardando l'acqua del prendere per piede, eh. Ho capito. D'accordo, dai, buon proseguimento con SEO 754 di nuovo. Ciao, si può entrare, siamo qua, dai. Allora, ma stai andando già? Grande. E mi sa che ha chiuso, sta controllando il GPL. Ah, scappa. Hai capito la che come la questione? Oh, yeah. È tutto un casino contro casini, per carità. Ma speriamo bene che quando andiamo a votare, se passa Berlusconi, ha detto che c'è la possibilità che si creano un po' di posti di lavoro. Speriamo bene che sia veramente così. Oh, yeah. La gran pena di quale domanda non si sa ancora quando escono. Non si sa, ma ha detto, io avevo telefonato a Cordo, a quello, come si dice, a quello di, dell'ufficio giù, a Binorto, e mi ha detto, dice, per quella domanda ci passeranno massimo una ventina di giorni. Cazzo, ho detto, una ventina di giorni, e ha detto, e cosa faccio io? Rimangono 20 giorni senza mangiare, non ho capito, ho detto, qui. Cos'era? Prima delle feste di Natale, così era? Dall'11 al 13. Adesso sto ricordando. Più le feste, le feste sono preso per Natale, tariffi e ruffi, se ne parla una qualche settimana. E scappa, purtroppo è così. Casino, No, niente. Avanti, buonasera. Salutori. Vabbè, dai, ciao Pepe, la so. Uè, ciao Pepe, l'hai sentito, ti stavo riconoscendo. Dai, sono venuto solo a salutare per essere andato. Sono salito a prendere tutto, così mi vado a lavorare, me ne vado adesso. Sentiamo, dai, sono venuto solo a salutare. Ciao, buon proseguo, buon tutto, ce la riascoltiamo. Ciao Giuseppe. Ciao Franco, e dove stai andando? A Trafalco? Via, a Trafalco. Ah, ti tocca di notte stanotte? Via. Beato a te, quanto non ti invidio, fra. Sì, vabbè, pazienza, dai, ci siamo. Sì, vabbè, avrei voluto io quel lavoro lì, magari, l'avrei voluto io a fare tutte le notti, non mi sembrava vero a me. Ecco. E sai cos'è Giuseppe? Anche noi abbiamo avuto di quei problemi, siamo stati mesi a casa, siamo stati tutti ricercati, qua, poi quando la nostra ditta ha fallito, che sono entrati questi, che volevano portare gente da Cagliari, volevano portare, gliel'abbiamo impedito, gliel'abbiamo. Non è giusto che nel nostro lavoro arrivano dietro la Puglia a prenderci. Giustamente come hai detto tu, fra, giustamente, è meglio che ce lo facciamo noi, tanto ne abbiamo più bisogno noi che noi che loro, loro se ne vogliono se ne zappano, il discorso è quello, va bene che il lavoro no, hai capito, no, non si nega a nessuno, però tanto, rispetta chi c'è prima. Infatti, sono anni io rientro, io sono 30 anni che rientro, lui dopo poco sono finito in ma niente fare. Va bene, dai, comunque ci sentiamo, con così come tutto, ce la riascoltiamo. Avanti Daniele. Dai, ci ascoltiamo alle prossime, buon trabacco e buon tutto, dai, buon proseguimento di serata. Buon trabacco, buon tutto, dai, e ce la risentiamo tutte le prossime, se coincide, dai. E via, ciao. Ciao. Avanti, Daniele. Via. Aspetta, sto guardando una cosa qua. Andiamo per la vera. Hai capito, dai, com'è il discorso, via, vedi. Chi ce l'ha il lavoro, caro Daniele, ce lo tiene stretto perché oggi a tempi di oggi il lavoro vuol dire tutto, hai capito? Non per i soldi, però anche per tutto, hai capito? Perché ti dà un avvenire, ti dà quello, ti dà quell'altro, puoi fare tante cose con il lavoro. Uno che non c'ha lavoro non può fare nessun progetto. Vabbè, c'ho le gambe troncate. Aspetta un secondo. Sono qua, sono, rimango qua, sono in ascolto. Giuseppe. Sì, mi dai. Sei a sua entrata. Va bene, non c'è problema, già sono qua. Mi stanno ricaricando la sigaretta elettronica. Ho capito. C'è peggio della macchina, sono i mezzi, non funziona. Ho capito. Allora, ma Dania, ma quando organizziamo, ce ne andiamo a fare, ce ne facciamo qualche pescatina assieme, ce l'hai le canne, sì? No, non avevo canne, la devo prendere. Adesso sono incasinato con la casa di giù, sto facendo. Appena c'è un attimo di tempo già ci possiamo organizzare. Non c'è nessun problema, organizziamo e non ce n'è problema, hai capito? No, andiamo a farci, così tanto per passare un paio di ore assieme, vuoi portare la tua signora, non ce n'è problema, giusto per prendere una boccata d'aria, hai capito? Vabbè, giusto quando fa il tempo migliore, capito? Che c'è un po' di caldo e possiamo anche organizzare. Ehi, aia, forse ne sai. Insomma, già ne so qualcosa, capito? Tipo lì a Portoferro, poi a come si chiama lì? Alla Bombarda, quella zona lì. A Orate? Orate, Sara, che quello che capita. Se capita, pesci dal Bumba, perché è Marigio. No, già ci passa tutto. Portate a prenderli, poi a mangiare già non ce n'è problema. Ehi, ci organizziamo, dai, un giorno già, ci organizziamo. Facciamo una serata diversa. Non c'è problema, no? Giusto per passare un paio di ore all'aria aperta, capito? Almeno rispediamo aria pulita. Se non ci fanno pagare anche quella. Fa un po' anche quello, là. Scappa. Hai fatto sì il permessino, sì, per passare, Dani. Sì, ma l'avevo scaricato dal sito. Ce l'ho. No, era giusto per chiedere. No, ce l'ho anch'io, però. Perché se non si trovano quello lì, sono 1500 euro di multa. Più c'è quello delle... di tutta quanta l'attrezzatura. Te l'ha pensato, ma è il tuo mio ex collega che fa la zuffa a Porto Torres. E quindi l'avevo fatto. Ora se ti trovano quando vai a pesca, non c'è questo, sono cazzi da mare. Gli italiani non lo blu è quello che ti rilascia con il nome e tutto quanto, capito? Il foglio che è attaccato al permessino. Sì, ce l'ho, non so, però adesso me l'avevo stampato comunque. È una cazzata, Già lo so che è una cazzata, sul computer vai e lo vedi un po'. Allora, ti lascio questo specie di patentino per l'insino, vedo perché ho. Tutto lo inventano là. Ormai te l'ho detto, ormai questa gente non sa dove andare a prenderne i soldi, hai capito, e tutto quanto. Come sta andando a mangiare? Andiamo, per carità, per carità. Va Rex. Scappa. Stavo facendo vedere la striscia la notizia di coso, quel programma che fa coso, quello Ricciardo, Cocco, Striscia Cocco, benvenuti a Sassari. Benvenuti, no, non è neanche qua televisione, c'è una cucina di là. Sei tu, devi guardare il canale 5 e vedi che c'è Cristian Cocco e che sta in attività facendo delle cose che ci sono in capannone e sta facendo vedere un po' tutto quanto. Aspetta, vado a vedere 5 minuti, aspetta. Io sono qua. magari. Oh, ya, ya, stavo l'ho visto. Vai. Allora, bene tutti era. Bene tutti. Ehi, e lì ci sono tante, inteso, quante miliardi ci sono buttate così, hai capito? Ci sono. Allucinante. E questi sono tutti i soldi buttati. Poi la struttura la prendono in mano i vandali, tutta la rifare, infatti che la paghi due o tre volte la stessa struttura. Ma sono soldi che escono da noi. Allora, tutti i soldi nostri sono alla fine, tutti i soldi pubblici noi contribuenti. E chissà quante ce ne sono dalle nostre parti di queste strutture realizzate, abbandonate, mai messe in uso. Siamo inutili, hai capito? Siamo tipo delle bestioline. Sì, e poi chissà che fine fanno questi soldi, si perdono, tra virgolette, che se li mangiano. È tutta una catena, Non hai capito, loro sono bravi a sfasciare i nostri soldi, quelli che... E poi non vanno a aiutare le persone che proprio ne hanno bisogno, almeno se volete aprire questo centro, apilo, mettici personale, mettici quello, mettici quell'altro, utilizza tutta quanta la roba che c'è lì dentro, almeno dai un servizio, invece lo lasciamo lì buttato, chiuso, e però sempre pagando dalle tasche nostre, hai capito? E allora, per carità, guarda. Ce ne sono cose fatte male, guarda. Se andiamo a vedere ce ne sono un bel. Purtroppo tutte quante le strutture che stanno chiudendo adesso, perché non ce la fanno più e... perché dice che non ci sono soldi e non riescono a mandare avanti le cose, hai capito? Le ditte. Purtroppo. Adesso mi ha chiuso anche San Camillo. Chiuso del tutto? Chiuso del tutto, sì. Il reparto, quello dove c'erano i bambini di malati, quello, il reparto dove c'erano è chiuso perché io ho un figlio di quel problema e andava lì la mattina alle 8:30, alle 4:30 e non me l'hanno accettato perché dice che il bambino non ho capito. Dovevamo chiudere la struttura e non potevano seguirla, hai capito? Ma ti rendi conto? E quindi? Dove vanno a finire questi bambini? E adesso mi devo fare un giro a casa del coso, adesso non so se c'è quello di via Milano, non so, quello di Gesù Nazareno. Ho capito. Proprio io quello non lo so neanche dove si trova, hai capito? È semplice, se tu conseggi l'ippodromo per andare verso via Milano, come superi l'ippodromo e c'è superi il semaforo, sotto sulla destra per salire verso via Milano, poi ti trovi il cartello Gesù Nazareno ed è una stradina, gira a destra e dopo 50 metri ti trovi l'ingresso Gesù Nazareno. Ma sarebbe per andare a San Cipriccio, quella zona lì? No, molto prima. Lo sai dove è l'ippodromo? L'ippodromo sì che lo so dove. Ecco, tu prosegui, vai dopo l'ippodromo, non ti trovi un semaforo, superi quel semaforo e sulla sinistra ti trovi la Fiat, la diretta. E poi quasi di fronte alla Fiat c'è questa strada, una stradina, c'è scritto proprio, non vedi, ci sono Nazareno, giri a destra e te lo trovi lì. Vabbè, adesso lunedì, perché dovremmo andare lì per vedere se posso fare qualcosa per metterci mio figlio lì, inserirlo lì, capito? Perché lì a San Camillo è chiuso e non lo vogliono. Adesso, se no, devo trovare un altro sistema per mio figlio, vediamo, un centro di accoglimento, di coso, che tengono questi ragazzi in questa malattia, capito? Guarda, non ce l'ho sbagliato, io, è facile da trovare, capito? E vabbè, adesso lunedì mi farò un salto e vediamo un po'. Andare. Vabbè Giuseppe, dai, che qua è pronto. Ci ascoltiamo alle prossime, dai. Bene, dai, già ci sentiamo alle prossime. Buona carica, salutami il cuore e salutami tutti quanti, dai. Ci sentiamo tutte le prossime, dai. Ciao ciao. Buona carica. Sì, grazie Giuseppe, dai. Buon proseguimento e buon tutto. Ciao. 5, attenzione sul canale 5. Avanti, chi è? Ciao, se non ho capito bene c'è il volume basso, scusa, mi ripetimi? Sì, ciao Gianni, che ti ascolto bene, forse è chiaro? Sì, adesso sì, ma ti ascolto molto bene, ma sei vicino a questa zona, mi ha detto? 6-9-10, modulati, buona, 3-5. Ma in macchina sì? La tua? Ti sento benissimo. Non sai che ha fatto il suo diavolo delle bollettine, va bene domani, che tempo fa? Sul radiometro messo sempre io. E sul 78, sì, sul canale 2. Poi ce l'abbiamo perché ce l'abbiamo anche per lavoro. Anche in inglese lo dice. Prima lo dice in italiano, dopo lo dice in inglese. Adesso sta con l'altra radio già. Così mi dici come sta. Proprio come sta andando. Ok, aspetta che attacco anche l'altro, va? Ok, ci dovrei essere, vedi un poco? Papa di Roger, questo è l'altro ancora, dai, quella che usavo sempre. Sì, va bene, passo il volume, un attimino qui, quella c'è attaccato, questa qua c'è la sua. Ok, adesso questa è la classica mia modulazione, sempre, diciamo, quella che mi si addice di più alla voce di verticale. No, io volevo dire, la voce che si addice alla mia voce personale, capito, in verticale, questa microfonia mi fa la voce che mi si addice di più alla voce personale, capito, la mia, quella che sono io, verticale. E questa è molto forte, è amplificata al massimo, è molto forte in radio, è buona. Prestato ancora lo stesso. E prima eravamo una bella ruota, prima di andare a pranzo, già c'era un bel po' di gente, c'era. Dopo che sono uscito ho fatto delle commissioni, ho cenato, me ne sono sceso adesso, mi sono neanche 10 minuti qua. Adesso provo a abbassare un pochettino, ho già. Ecco, mi dice adesso a questa posizione come segnale? E un pochettino ho dovuto abbassare. Ho abbassato un pochettino, non sta mai che tutto il peggio qua le antiche che ci abbiamo dentro. Ma va bene già, anch'io è stato pochissimo. Un attimino Gianni che sto vedendo poco. Adesso disturba un pochettino. E adesso no. Ecco, ho messo un attimino compromesso, capito già? Ah vabbè, ma io siccome ho l'antenna che sto trasmettendo, sotto nello stesso palo c'ho l'antenna della TV, capito? Sono molto vicine già. E quando mette da poco di qua, le hai risolte, attaccate, ma a 50 centimetri, mi. Vabbè, ma l'antenna, quella della TV di Furgone, è quella di casa mia, capito? Del piano di sopra. Però strano, quelle che c'ho giù io, non li disturba, capito? E la faccio solamente quando loro sono su, capito? Stanno guardando su e basta, dopo dai loro stanno scendono giù, ce l'hanno anche in camera. Quella lì non la disturba, neanche quella che sto guardando io adesso la disturba, lì. Anche io adesso sto guardando qua la televisione, no? Non la disturba. E quella lì è di quelle non di queste di nuove di ultima generazione. È nuova però di quelle grandi, capito? Quelle di profonde. Quando si faccia ne pongo una di normali e vedrai che non disturba più, che sono schermate. E no, ci siamo sentiti, grazie altrettanto, già no, non mi ricordo io, non ci siamo sentiti. Tutto bene, comunque è passato bene, tranquillo. Ah no, è un bene, cosa devi fare? Sì, no, tranquillo, deve essere proprio una cosa del genere. L'importanza è che appunto non disturbo poi da questo guardando io adesso qua. Senti, ci sarà qualche spiraglio, perciò ti sento bene anche quando sono in macchina, anche dalla macchina ti sento bene. Molta gente ce l'ha e non ci parla, lo usa solo per ascoltare, purtroppo è così, e piano piano speriamo che la passione altro un altro po' di